Negli Stati Uniti adesso, dove i democratici si interrogano sull'opportunità di cambiare candidato in corsa dopo la performance sottotono di Biden nel dibattito TV con Trump. Il servizio di Francesca Romana Elisei, poi il commento del professor Gregory Aleggi, sentiamo. E adesso per i democratici la campagna elettorale rischia di diventare una via crucis. All'indomani del primo dibattito presidenziale non si parla d'altro che dell'opportunità di sostituire Biden alla corsa per la Casa Bianca. I pesi massimi del partito, a cominciare da Obama, pubblicamente lo sostengono. Ma quel che circola nelle chat private dei democratici a restituire la preoccupazione per un candidato debole. La voce flebile, gli sguardi assenti, quei vuoti di memoria che sono sembrati interminabili. Ed è anche il sostegno degli analisti politici a franare. L'invito a farsi da parte è arrivato addirittura dalle colonne del New York Times, un giornale certamente non ostile ai Dem. E già impazza il totonomi, dalla vicepresidente Kamala Harris al governatore della California Gavin Newsom, a quella del Michigan Gretchen Whitmer. E c'è chi alimenta ancora l'eterna suggestione di Michelle Obama. Ma il presidente 81enne, che ieri in un comizio in North Carolina è apparso più in forma, insiste: so di non essere più giovane, ma so come si fa questo mestiere. I know how to do this job. La sostituzione di un candidato presidente in corsa è un fatto inedito nella storia politica americana recente ed è quindi carico di rischi. La convention si svolgerà in agosto e questo darebbe meno di 3 mesi per la gara. Quindi sostituire un prodotto noto con dei problemi, con uno nuovo, tutto da inventare, in un tempo così breve potrebbe portare più problemi che non vantaggi. Varato il